In Olanda la diffusione delle fattorie sociali si è rivelata una soluzione buona, soprattutto per le piccole aziende che per sopravvivere erano costrette ad attività collaterali, cosa che ha favorito la diffusione delle social farms. Il fatto che in molte famiglie contadine c'è almeno una persona con esperienze pregresse nel settore infermieristico e nell'assistenza. A Roma, nella provincia, l'esistenza giuridica di questi luoghi ha avuto un percorso lungo e travagliato. Ancora Tiziana Biolghini, coordinatrice del Forum delle Fattorie Sociali della provincia di Roma. Io mi ricordo con molta sincerità che la delibera d'iniziativa consigliare che istituisce il forum ha impiegato un anno per essere approvata in provincia, perché ci sono state, come si dice, numerose correzioni costruttive, ma al di là di questo dal mondo del sociale c'è stato subito un grande interesse, perché ci sono migliaia di operatori in Italia che da anni svolgono in grande solitudine, senza il riconoscimento delle istituzioni, terapie complementari. Noi abbiamo pet therapy in molti ospedali pediatrici, abbiamo il latte di asina che ha un valore enorme, perché in Italia, come sapete, nascono ogni anno 15.000 bambini con intolleranze gravissime ed è un ottimo sostitutivo di quello materno, però è ancora di nicchia. Per fare un esempio, l'asino è un animale docile, un animale che sta molto bene con i disabili e produce una ricchezza per la nazione, per tutti. Queste politiche, quello che volevo sottolineare, è che producono valori per l'intera comunità. L'idea che il coordinamento delle fattorie sociali della provincia di Roma sta diffondendo è quella di dare vita a un mercato che, mentre si sostiene, sostiene la terapia e rilancia un territorio, quello agricolo, ormai in disuso. Dal 2002 il Forum delle Fattorie Agricole ha creato 50 aziende, cooperative, associazioni sociali che nel tempo hanno coinvolto centinaia di persone altrimenti destinate a finire in strutture. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.